le notizie in 60 minuti. Cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento, questo primo appuntamento di settimana con Effetto Giorno. Anche noi oggi trasmissione da Expo, qui ospiti di Cibus nello spazio tra i padiglioni di questa giornata che peraltro coincide con il compimento del secondo mese dell'esposizione universale Milano. Insomma, vi abbiamo raccontato l'apertura, i giorni delle preoccupazioni maggiori. Ecco, ora 60 giorni è anche, come sapete, per noi l'occasione di fare un po' il punto di questa grande manifestazione. Ma naturalmente ci sono le notizie che incalzano, e quindi prima di parlare di Expo con alcuni ospiti, visitatori e così via, insomma, le notizie. La notizia oggi è soprattutto la Grecia. Infatti è iniziata la settimana dell'emergenza. Tsipras ha parlato, il ministro dell'economia e della finanza italiano ha parlato ieri sera, scegliendo i telegiornali appunto di Stato per rassicurare l'opinione pubblica. Tocca a Juncker affrontare il grande tema Grecia, mentre da una parte si segnala un atteggiamento, diciamo, morbido da parte della Germania, dall'altra quella che viene definita una vera e propria chiusura della porta da parte della Francia. Ecco, questo il tema principale della nostra giornata, ma naturalmente spazio anche agli sviluppi di quegli orribili attentati terroristici che venerdì hanno macchiato letteralmente di sangue la spiaggia di Sousse in Tunisia. Insomma, partiamo e lo facciamo tra qualche istante con un collegamento in diretta con la nostra redazione, dove ritroviamo Livia Zancaner. Tra un momento. Eccoci qua dunque, quando sono da pochi momenti le 13.03, scusate, secondo l'ora di Expo, almeno vedo un orologio, perché letteralmente qui siamo in uno spazio di vetrature in mezzo ai padiglioni, mentre il nostro clock ufficiale in questo momento non lo vede, per cui teniamo l'ora di Expo. Dicevo, Livia Zancaner che ci fa il punto. Ieri di fatto la giornata parecchio convulsa di un weekend convulso ha segnato lo scontro davvero e anche le accuse pesanti da parte di Tsipras nei confronti dell'Europa. A che punto siamo, Livia? Sì, allora Gigi, buongiorno. Le trattative con l'Eurogruppo, lo sappiamo, si sono rotte, sono chiuse. È stato convocato questo referendum per domenica. Il paese si prepara a gestire quindi una settimana di totale emergenza. Le borse, le banche sono chiuse sicuramente fino a domenica, quando i greci saranno chiamati a votare sì o no alla proposta della ex troica. Fino ad allora i cittadini non potranno prelevare ai bancomat più di 60 euro al giorno. Sono esclusi i bancomat e le carte straniere. La parola quindi passa oggi all'Europa. In questi minuti è in corso la conferenza stampa del presidente della Commissione Europea Juncker. Il presidente sta parlando e dice che l'Europa deve essere luogo della convergenza politica, non della rivalità tra gli egoismi nazionali. L'eurozona deve restare a 19 paesi, ci sono 19 democrazie e non 18 contro una, quindi quella greca, o una contro 18. Non stiamo giocando a poker, siamo tutti vincenti o perdenti. E poi Juncker dice anche: sono rattristato dallo spettacolo che l'Europa ha dato, mi sono sentito tradito. Abbiamo tanto parlato di ultimatum, ma dice: chi ha agito così, da dove vengono i qui pro quo e le frasi non terminate? La Grecia ha optato unilateralmente per il referendum, devono fare attenzione a quello che è in gioco. Io e Dijsselbloem, cioè il presidente dell'Eurogruppo, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, siamo comunque vicini al popolo greco. E intanto Juncker sta comunque continuando a parlare, quindi oggi è il giorno delle riunioni straordinarie in Europa e delle dichiarazioni dei leader che, come dicevi tu, mostrano tutta la loro divergenza. La situazione è drammatica, dicono dalla BCE. Deploro la scelta di Atene, il commento del presidente Hollande. Dalla Germania invece l'apertura: rispetteremo l'esito del referendum. Angela Merkel continua a essere disponibile a colloqui con il premier greco Alexis Tsipras, se questi lo desidera. E secondo il Financial Times, proprio il premier greco ha scritto ai leader europei per provare ancora una volta a chiedere l'estensione del programma di aiuti. Domani scade il piano, senza un accordo, ricordiamo, Atene si avvierà ufficialmente verso il default. E per ora è tutto. Grazie a Livia Zancaner per questo aggiornamento. Dunque, domani sera la scadenza, lo ricordiamo, 1,6 miliardi, si sta parlando, questa è la tranche in ballo su un debito complessivo di 320 miliardi di euro, insomma una piccola, tra virgolette, consentitemi, la definizione cifra quando si parla di 28 stati, anche se nell'euro sono in 19, ma una cifra determinante per avviare o meno un meccanismo che di fatto è un grande contenzioso politico. Un contenzioso che ha portato persone anche estremamente pacate, come il nostro ministro Padoan, a esprimersi in questi termini. Sentiamo cosa ha detto ieri sera. Non è l'Europa che sta facendo fallire la Grecia, ma casomai sono le scelte del governo greco che non sono, a mio avviso, adeguate alle necessità della Grecia. L'Europa, al contrario, sta dimostrando una grande coesione e sta facendo di tutto per non solo mantenere l'integrità della zona euro, ma per rafforzarla. Ecco, insomma, c'è una grande volontà, a questo punto c'è la volontà di tutti a risolvere questa questione, ma la questione non si risolve. Naturalmente staremo a vedere nelle prossime ore. Intanto con Vincenzo Miglietta, dicevo, intanto buongiorno Vincenzo. Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori. Allora, dicevamo, il ministro rassicura, lo ha fatto ieri scegliendo appunto i telegiornali pubblici, e la questione rimane. Dicevo, la cifra in questione non è, se vogliamo, per quanto impressionante, 1,6 miliardi, ma in un contesto davvero ben più grande. Ma qual è stata la reazione questa mattina dopo la prima apertura, spavento, borse giù del 4% eccetera? Oggi la situazione come si sta stabilizzando dal punto di vista dell'economia? La situazione dal punto di vista dell'economia è di grande attesa, abbiamo cercato di capire quale fosse il sentore soprattutto del mondo produttivo, quindi di chi ha in mano il tessuto produttivo del paese, dal lato degli imprenditori e dal lato dei sindacati, e dalla Confindustria per esempio rimandano le parole del presidente Squinzi di qualche giorno fa: l'uscita della Grecia dall'euro o dall'Unione Europea creerebbe uno scossone che saremmo in grado di assorbire, ma preferirei evitarlo. Queste le parole del presidente di Confindustria Squinzi. L'economia della Grecia, ha ricordato più volte il leader degli industriali, equivale a poco più di un terzo dell'economia della Lombardia, non è tale dunque da mettere in discussione l'Unione Europea e l'euro. Quindi non preoccupazione stretta sotto l'aspetto economico, più preoccupazione sotto l'aspetto proprio del valore che ha l'Unione Europea anche per il nostro paese, preoccupazione per i destini di Atene da parte anche dei sindacati. CGIL, CISL e UIL uniscono il nodo della Grecia, Gigi, al tema dell'immigrazione per puntare il dito sui vertici di Bruxelles. Noi da europeisti convinti, dicono i sindacati, vediamo una crisi straordinariamente profonda e ne vediamo tutti i rischi. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Adesso invece facciamo un punto con Daniele Biacchessi sull'altra parte, o meglio su una delle altre parti di questa complessa vicenda, che è quello politico. In Europa, in Italia, anzi in Italia e in Europa si stanno saldando anche nuove alleanze. Ieri per esempio abbiamo notato un Brunetta sostenitore di Tsipras, abbiamo osservato nel Parlamento greco il voto congiunto da una parte appunto di Tsipras e del suo gruppo ovviamente, ma sostenuto da Alba Dorata. Insomma, un rimescolamento di carte. Sentiamo il punto nel servizio di Daniele Biacchessi. La critica alle politiche di austerità europea era, fino a qualche mese fa, posizione minoritaria nel nostro paese, ma in seguito agli ultimi risultati elettorali e amministrativi questa posizione risulterebbe oggi maggioranza nel paese, almeno sul piano della rappresentanza politica organizzata. Il fronte anti-euro è assai variegato. Solo 20 giorni fa il Movimento 5 Stelle aveva presentato in Senato 200.000 firme per indire un referendum contro l'euro. Il movimento, guidato da Grillo e Casaleggio, si è impegnato con banchetti in tutta Italia per almeno 6 mesi di raccolta firme. E oggi, lo ricordo, secondo i sondaggi, il Movimento 5 Stelle quotato intorno al 27%. La Lega di Salvini, in crescita esponenziale nelle ricerche sul mercato politico, ha da sempre criticato l'euro e le politiche europee. A Salvini non piace la formula del referendum, ma il suo progetto non è dissimile da quello di Grillo: vincere le elezioni, battere Renzi, cambiare i rapporti tra Italia ed Europa in termini economici, euro compreso. Per questo motivo la Lega ha distribuito da oltre un anno un manualetto ai suoi militanti ed elettori, una una sorta di vademecum anti-europeo. Al Movimento 5 Stelle e alla Lega dobbiamo aggiungere le destre estreme come Casa Pound e Forza Nuova Alba Dorada, i centri sociali e gli antagonisti, pezzi minoritari di Rifondazione Comunista e SEL e parti consistenti di Forza Italia di Berlusconi, alleata, lo ricordiamo, con Salvini. Non sappiamo se questo fronte diventerà un progetto comune oppure resterà soltanto legittima critica politica. Tutto dipenderà anche dall'evoluzione della crisi economica greca e dal referendum indetto nel prossimo weekend dal premier Tsipras. Tutto legittimo, ci mancherebbe, così come è interessante sottolineare, e sicuramente è legittimo, Juncker che dice mi sento tradito, insomma ho fatto tutto per aiutare i greci che dicono mi sento tradito, ci sentiamo traditi dall'Europa che ci ha stretto in un angolo. Ecco, intanto diciamo la vita reale va avanti e siccome siamo a fine giugno e anche qui oggi ad Expo è una giornata di sole, bella, bella calda da vacanza, diciamo, la Grecia per molti di noi e per i greci è una grande destinazione turistica. Allora, quando sentiamo che i bancomat vengono chiusi, che il prelievo non sarà più disponibile, come ci dobbiamo organizzare? Rinunciare alla Grecia? No, per carità, non è il caso, è un posto troppo bello per tanto più in questo momento, però insomma qualche indicazione pratica. Allora abbiamo chiesto di fare il punto in un servizio che sentiamo insieme. Cancellazioni non ce ne sono, gli aerei partono pieni, anche gli alberghi lavorano. Luca Battifora, presidente della STOI, l'associazione che riunisce i tour operator italiani, dice che al momento non c'è da preoccuparsi e che i disagi per i turisti saranno relativi. Crisi o non crisi, la Grecia e le sue isole da sogno restano tra le mete preferite per gli italiani. Insieme all'Italia e alla Spagna sono le tre destinazioni più richieste per le vacanze estive dagli italiani. Nell'ipotesi di un default qualche disagio potrebbe esserci, ma sicuramente non è l'impossibilità di trascorrere la vacanza. Impossibile prima del referendum e di un eventuale Grexit prevedere se ci possa essere un calo o un aumento dei turisti e quanto costerebbe un viaggio sull'Egeo con la Grecia fuori dall'euro. Per ora chi sta partendo fa bene a portare con sé tutti i contanti necessari per l'intero soggiorno, mentre la Farnesina invita a controllare che i servizi, aerei, navi, treni, siano regolari. Ancora Battifora. Sono suggerimenti, diciamo, che rientrano assolutamente nel buon senso. Andare oltre in questo momento di qualsiasi considerazione sarebbe precoce. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ecco dunque, meglio comunque organizzarsi. Nel frattempo vi leggo un'agenzia appena battuta che tocca questo tema. Nelle ultime due settimane i risparmiatori in Grecia hanno prelevato dalle banche oltre 8 miliardi di euro. Lo scrive Moody's in una nota sottolineando che i depositi presso gli istituti di credito ellenici da parte dei privati sono crollati di 44 miliardi di euro e 120 miliardi dalla fine di novembre. Insomma, è chiaro che la situazione è senz'altro seria, molto seria. Speriamo che non diventi drammatica per la Grecia, per l'Europa. Staremo a vedere. Ecco, per adesso ci fermiamo un attimo perché in realtà appunto il mondo è grande, non c'è solo la Grecia. Se non fosse esploso venerdì sera di fatto con l'annuncio di Tsipras questa sorta di showdown della crisi greca, noi probabilmente staremmo parlando dell'attacco del terrorismo, attacco di terrorismo che ha ucciso quasi 40 persone su una spiaggia di Sus, persone del tutto inermi. Quindi l'allarme che riguarda da una parte il terrorismo in senso lato, dall'altra l'economia complessiva del Nord Africa, da cui poi dipende in maniera importante anche il grande tema della migrazione. Allora, Katia Caramelli ci ha fatto un punto sulla situazione in Tunisia, lo sentiamo insieme. Non era solo e non è giunto dal mare, ma con un'utilitaria l'attentatore della strage sulla spiaggia di Sus. Lo ha riferito oggi il ministro del turismo di Tunisi. Le autorità sono dunque alla ricerca dei complici. Sono già stati sentiti il padre del 24enne e tre dei suoi compagni di stanza universitari, mentre in mare è stato recuperato il suo telefono. Intanto in un video amatoriale girato dal balcone di un albergo si vede la folle corsa sulla spiaggia dell'attentatore completamente vestito di nero, un Kalashnikov in mano, prima di essere ucciso. Il governo tunisino ha deciso l'istituzione di una polizia turistica a difesa dei resort del paese, 1000 poliziotti armati negli hotel presenti lungo la costa. In Tunisia oggi sono arrivati il ministro dell'interno francese, quello inglese e quello tedesco, dopo l'omaggio alle vittime, una riunione congiunta per loro. E intanto la polizia britannica lancia un allarme, aumenta il rischio che venga compiuta una strage simile anche nel Regno Unito. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore. Grazie anche a Katia Caramelli. Prima della viabilità, peraltro stamattina abbiamo avuto anche qualche problema di accesso qui al grande spazio di Expo, in particolare probabilmente già legato ai rientri dei ponti, insomma, che dei ponti dei fine settimana, domenica, che si spinge giustamente chi può verso lunedì. Ma dicevo, prima della viabilità, vediamo con Livia Zancaner se ci sono aggiornamenti da Bruxelles. Sì, buongiorno. Allora, il presidente Juncker sta ancora parlando e il suo è un attacco al governo greco. Dicevamo prima, Juncker dice: mi sento tradito, ho fatto il possibile, non merito tutte queste critiche. Poi ha iniziato a parlare di come si sono svolti i fatti, cioè le autorità greche hanno rotto inaspettatamente il tavolo delle trattative, dice Juncker venerdì notte, nel momento peggiore l'Eurogruppo era disposto a discutere le proposte, e dice: devo chiarire alcuni punti del piano proposto dalle istituzioni, non ci sono tagli alle retribuzioni, non era un'opzione mai messa sul tavolo e nessun taglio alle pensioni, abbiamo solo proposto di modernizzare la griglia salariale del pubblico. Nel nostro piano non c'era una stupida austerità, dice Juncker, anche il governo greco riconosce che il sistema pensionistico non è sostenibile. Questo pacchetto, cioè quello che loro hanno proposto, significa più crescita e più stabilità, e poi però ribadisce: l'uscita della Grecia dall'Eurozona per me non è mai stata un'opzione. Il commento di Angela Merkel: se fallisce l'euro fallisce l'Europa, l'Europa deve essere in grado di trovare un compromesso di fronte a ogni sfida. Vedremo ora dove, se il discorso di Juncker avrà una conclusione, tranchant, quale comunque sarà la conclusione del suo discorso, che dicevamo è ancora in corso. Ed è tutto. Grazie a Livia Zancaner. Dunque c'è un elemento anche tutto psicologico in questa crisi. Chi ha seguito un po' gli sviluppi ha visto anche nel linguaggio del corpo come Juncker si sia sempre relazionato a Tsipras come in un rapporto quasi tra padre e figlio, ed era sicuramente convinto che le cose avrebbero preso una piega diversa. Ma adesso è tempo di aggiornamenti per chi in viaggio. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Eccoci qua, ancora un buongiorno da Gigi Donelli, e naturalmente, come vi ho anticipato, oggi Radio 24 e dunque anche Effetto Giorno qui da Expo in una bella giornata di sole, caldo come d'annuncio, un'Expo animata. Siamo di lunedì, eppure anche oggi c'è davvero movimento tra gli stand, e siccome siamo qui abbiamo deciso che, certo, come sempre teniamo d'occhio la strettissima attualità che è in corso, naturalmente in particolare tra Atene e Bruxelles, ma cerchiamo di prenderci anche qualche momento per riflettere su questa grande fiera, su questo grande evento e su temi connessi. E allora vado a presentarvi i nostri ospiti. Partiamo e parliamo per qualche minuto di Russia, lo facciamo assieme a Evgeny Utkin, che è ricercatore all'Università di Stato di Mosca, manager per imprese intergovernative, voce anche, lo avete conosciuto anche a Radio 24, per parlare insomma delle problematiche della Russia. Intanto benvenuto. Grazie. E abbiamo invece una nuova ospite, Irene Patrignani, buongiorno. Buongiorno. Dunque Irene invece si occupa in questa fase, proprio segue il padiglione russo. Allora io volevo approfittare della sua presenza per, come dire, farsi raccontare un po' di Effetto Expo. Italiani, grande visita, come sta andando la visita della Russia? Cioè c'è curiosità da parte degli italiani? Tantissima curiosità. Noi infatti al padiglione vogliamo approfittare di questa grande occasione per fare anche conoscere la cucina russa. Al padiglione facciamo tutti i giorni degustazioni gratuite di piatti tipici nazionali. La Russia ha 180 nazionalità diverse al suo interno, quindi cerchiamo in occasione di Expo e all'interno di queste degustazioni di far provare un po' tutto, ed è la parte che ha veramente molto successo. Ecco, io però so anche che a volte i nostri visitatori sono rimasti un po' sorpresi, lo so perché mi è capitato personalmente, sono entrato nel padiglione russo, ho visto l'offerta di kvass, se non sbaglio, e una signora accanto mi ha detto, ma sarà veramente molto alcolico? No. È anche un'occasione di scoperta. L'intento insomma. È proprio quello di far capire che non esiste solo la vodka da bere in Russia, ma anzi in questo bar che ci si trova proprio entrando, molto, lo chiamiamo bar laboratorio perché ricorda un po' un laboratorio chimico, vogliamo far provare diverse bevande, ovviamente non alcoliche, e anche molto salutari per la salute, come per esempio il Mors, che è questo infuso di bacche, che sono molto molto comuni in Russia, ma anche il Kvass, che è questa bevanda scura molto dissetante in estate, e tante altre. Insomma, una scoperta anche della cultura del bosco, che poi è questa grande tradizione russa, dalle minestre, eccetera, eccetera. Tutto quanto sullo sfondo della grande tavola di Mendeleev che domina la scena, insomma, noi l'abbiamo studiato tutti, ma forse non tutti sanno appunto da dove provenga. Poi c'è un altro contesto, perché è chiaro, il clima qui a Expo, davvero giustamente, quello della visita e quello dell'apertura. Tutto questo però accade in un momento un po' particolare. Qui mi rivolgo a Evgeny Utkin, di fatto di un confronto a distanza molto muscolare che confronta l'Europa e la Russia, anche lì termini un po' a volte troppo vaghi perché molti in Europa hanno posizioni diverse, ma insomma ci sono echi di queste tensioni geopolitiche in chiave Expo, Evgeny, o qui si respira un'altra aria? Ma fuori ci sono qualche eco, però dentro sono tutti entusiasti, tutti ti abbracciano, baciano, dicono che non abbiamo la Russia, noi non vogliamo fare né sanzioni né controsanzioni, subiamo. È quello che proprio ho sentito sia da imprenditori italiani che non li conoscevo, sia da imprenditori tedeschi. Sono andato alla festa di Germania e lì, vedendo la spilla russa, mi avvicinavano quelli che non mi conoscevano e dicevano: senta, sai che noi abbiamo la Russia, abbiamo fatto affari da decine di anni e adesso dobbiamo quasi chiudere, non sappiamo cosa fare, la politica, questa è politica di governo e di Bruxelles ma non la nostra, quindi noi vorremmo continuare. Ecco, tutti vogliono continuare, nessuno vuole le sanzioni, sicuramente non le vogliono l'Italia, non le vuole la Russia, tanto che si tende anche a dimenticare perché sono state innescate, c'è una situazione in Ucraina di conflitto che purtroppo non sembra trovare una chiave di soluzione. Dal punto di vista del ricercatore, c'è invece qualche passo in avanti? Ma dopo quegli accordi di Minsk 2 la situazione non direi che è stabilizzata, ma diciamo quel conflitto cosiddetto frizzato, nel senso c'è conflitto, ci sono morti, non ci sono conflitto aperto con i carri armati o con grossa artiglieria, ma c'è comunque... Non possiamo dire che c'è la pace, assolutamente. E quindi anche questo che ferma di sanzioni che sappiamo che sono stati allungati. E poi tornando all'Expo, quando ha detto Renzi sabato parlando con Nazarbayev, perché ha assaggiato un kumis, un Nazarbayev, presidente del Kazakistan, in visita ufficiale da sabato, Renzi ha detto che con Putin ho bevuto la vodka, però a me risultava che ha bevuto proprio kvass nel padiglione, quindi ho scordato la cosa, quindi non hanno dato alcolico i russi, hanno fatto assaggiare bevanda tipica russa. L'altro, perché naturalmente c'è parecchio altro. Ecco, una domanda a proposito delle difficoltà, ovviamente, dicevamo, è chiaro che nessuno voglia queste sanzioni, non le vogliono i russi, non le vogliono gli europei, però la questione ucraina purtroppo rimane congelata in uno stato di fatto di guerra e di certo non di pace. Ecco, l'opinione pubblica russa ha sempre, da questo punto di vista, avuto un atteggiamento molto, o meglio, diciamo i media ufficiali russi hanno sempre avuto una posizione molto esplicita sulle posizioni e sulle colpe dell'Ucraina. È partito qualche forma di dibattito, a suo avviso, No, che diciamo, possa favorire un po'? No, diciamo Maestrino ovviamente ha posizione netta, chiara, che la Russia ovviamente non ha attaccato l'Ucraina, Crimea era 90% dei russi, quindi praticamente ripresa quello che era di fatto, i russi dicono anche de jure. Ci sono dibattiti ogni giorno sui primi canali i russi, dove invitano anche ucraini, ucraini di quelli di governo, e invitano europei, e quindi ci sono dibattiti aperti, ma comunque mainstream russo, ma anche la gente addirittura sta diventando sempre più patriottica. Per esempio Italia, che in primis subisce di non portare più mozzarella, frutta e verdura, ma i russi sono organizzati e stanno già producendo le mozzarella russa, ma scrivono Made in Russia orgogliosamente e mi dicono, io non ho ancora assaggiato, quando vado in Russia sicuramente assaggio, dicono che non è per niente peggio, nel senso molto buona come quelle di campagna. Questo è un concetto che non posso accettare come conduttore, sto scherzando. Sì, comunque non bene. Lo so, bisognerà naturalmente, gli animali brucano, pascolano a varie latitudini. Ecco, per concludere questo aspetto, l'alternativa dunque in questa lunga ormai fase di sanzioni è la sostituzione. Cioè il mercato russo si sta orientando altrove, in particolare Turchia, penso. Assolutamente d'accordo. Grande vincitore? Turchia, ma anche ex paesi dell'Unione Sovietica, stesso Kazakistan, stessi Turkmenistan, eccetera, dove hanno sole, caldo e hanno verdura. Ma Turchia in primis, ovviamente. Invece per grandi affari, ovviamente la Cina. La Cina per i grandi affari. Concludiamo ancora con una battuta invece sul calendario Expo in chiave Russia. Ci sono state le visite ufficiali. Che cos'è che dobbiamo segnare nella nostra agenda Expo, Irene? Non abbiamo ancora finito con i fuochi d'artificio. No. Ci sarà alla fine di settembre le giornate della cultura russa. Non anticipo nulla, ma saranno diverse giornate sia all'interno di Expo che in città, di eventi dedicati alla cultura russa su diversi fronti. Fine settembre, quindi immagino musica, danza, esatto. Insomma, i grandi classici, la letteratura, non manca, chissà che... Spettacoli sul ghiaccio. Ah, perbacco, davvero, insomma, la grande cultura russa che peraltro, appunto, come dimostra anche questa situazione un po' bizzarra, siamo in un tempo in cui, come abbiamo detto prima, il presidente della Commissione Europea lamenta il tradimento dei greci, i greci lamentano il tradimento dell'Europa, i russi non vogliono le sanzioni, l'Europa, tantomeno gli imprenditori italiani le vogliono, eppure tutto questo è il nostro presente. Staremo a vedere. Io ringrazio davvero i nostri ospiti per averci dato un contributo qui in diretta, lo ricordo, oggi Radio 24 da Expo, e adesso prendiamo qualche momento di pausa, poi torniamo per la seconda parte della trasmissione. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Eccoci qua ancora in diretta oggi da Expo. È tempo di sentire la borsa con Andrea Fontana. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, oggi in diretta da Expo per questa versione, appunto, effetto giorno, all'interno di una settimana in cui Radio 24 è qui presente nello spazio di Expo nella zona dei padiglioni, e parliamo naturalmente dei principali fatti del giorno. Abbiamo parlato di Grecia, soprattutto la settimana dell'emergenza, dunque dopo Tsipras avete sentito Juncker che risponde alle frasi, alle affermazioni molto drammatiche di ieri sera del presidente del Consiglio dei Ministri greco, e dice sostanzialmente: mi sento tradito. Intanto in Europa Berlino apre, e potremmo dire ancora, mentre è la Francia questa volta che appare molto determinata nell'opporre una posizione ferma alla scelta fatta dalla Grecia di indire il referendum. Tutto questo dunque negli aggiornamenti, naturalmente continueremo a parlare di tutto questo nel corso della giornata, ma oggi da Expo vogliamo parlare anche di questa vera e propria città, degli incontri, dei padiglioni e dei volontari, e qui arriviamo. Laura Bettini, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, buongiorno Gigi, buongiorno agli ascoltatori. In realtà non sarò io che vi parlerò ovviamente, no, certo, di volontari. No, noi parliamo di io tutto. Ho avuto la fortuna questa mattina di entrare qui e di incontrarne tanti, e di incontrare anche colui, insomma, il rappresentante di CSV, che è il Centro Servizi Volontariato, che coordina tutti questi volontari che sono buongiorno arrivati. Francesco. Buongiorno agli ascoltatori, a tutti, anche in questo momento un po' teso internazionale parliamo di cose positive. Beh, sì, come avete sentito anche prima, qui si parla di Russia, di sanzioni, dico, per fortuna esistono posti come questi, è ovvio che c'è tutta una diplomazia come dire, particolare anche in questi luoghi. Un po' di numeri, Francesco. Allora, siamo partiti con quasi 13.000 candidature più o meno da tutta Italia, di tutte le età. Poi siamo arrivati più o meno ad incontrarli, perché il CSV, Centro Servizi per il Volontariato del, e i vari centri servizi del volontariato nazionale hanno incontrato e orientato tutta questa voglia di volontariato. Siamo arrivati ad avere una squadra di 7.000 circa volontari che si divideranno per 13 periodi, più o meno di 14-15 giorni. E sono un po' da tutta Italia, diciamo, tanti dalla Lombardia, ma soprattutto Piemonte, soprattutto Sicilia, come la nostra. Ecco perché abbiamo un'altra ospite, un'altra ospite che si chiama. Buongiorno a tutti, mi chiamo Sara. Buongiorno Sara, abbiamo appreso appena che sei siciliana. Sì, però studio a Milano, è il mio ultimo anno di specialistica presso l'Università Bocconi. Una bocconiana, benvenuta. Dunque, come mai questa esperienza in una battuta? Allora, prima di tutto mi piace fare volontariato anche con altre organizzazioni, più che altro nell'ambito artistico e culturale, con il FAI per esempio, e poi essendo l'Expo qui a Milano dove studio ho voluto provare. Volontariato per passione. Io ricordo, Laura, quando siamo arrivati qua il primo giorno, meglio i giorni precedenti, perché poi abbiamo seguito, che una delle cattiverie che abbiamo fatto è stato andare subito dai volontari e gli dice: scusi, dov'è il bagno? Scusi, dov'è questo? E voi non sapevate nulla. Perché? Perché non eravamo noi. No, non è vero. Allora qui c'è la spiegazione, però quanti volontari ci sono? Le magliette, i colori sono gli stessi, non eravate voi? In che senso? Dipende da che giorno ho fatto la domanda e a quale persona. Primo giorno, no, la verità è che la risposta è molto semplicemente che questi ragazzi carini hanno detto: sapete, siamo entrati qui da un quarto d'ora e non sappiamo nulla. E li abbiamo capiti bene, perché è enorme questo posto. Certo. Poi io stessa sono stata scambiata per uno dei volontari. Ah, già, è vero. Più volte. Ma molti hanno chiesto a Laura. Anche come piccolo capo mi hanno riferito: scusi, non sono riuscita a fare quello che mi aveva detto. Sembrava che lei fosse il capo di un gruppo di volontari in fuga, qualcosa del genere. Però invece questi volontari che ci sono adesso ovviamente hanno potuto godere dell'esperienza anche di quelli che sono arrivati prima, no Francesco? Esatto, è stata una cosa in divenire, diciamo, anche noi stiamo imparando, possiamo dire, no? Migliorando sempre più la loro esperienza, che è quello che ci interessa di più, anche perché ricordiamo una cosa importante, forse anche una cosa positiva, ripeto, in questo scenario così, la maggior parte dei volontari non ha mai fatto volontariato prima, quindi stiamo parlando di persone che si avvicinano per la prima volta al volontariato e che, se ingaggiate positivamente dalle associazioni del nostro territorio, faranno volontariato dopo, quindi è una miniera di volontariato che comunque serve all'Italia, serve il lavoro, serve tutto, questo è indubbio, però il volontariato è uno degli ambiti importanti della nostra Italia. E anche della nostra vita, io direi. Esatto. Ma assolutamente, in un paese che peraltro lo pratica, no? Attivamente, con passione. Che cosa fanno questi volontari qui? Allora, i volontari hanno praticamente un'attività giornaliera di 5 ore e mezza, sono divisi in due turni, uno alla mattina e uno al pomeriggio, quindi 260 alla mattina, 260 al pomeriggio per 14-15 giorni. Poi passo la palla alla volontaria per spiegare un attimino qual è l'attività principale, ecco, durante le giornate, insomma. Esatto, la nostra attività è quella di accogliere il visitatore, quando il visitatore ci ferma, dare le informazioni che lui cerca, dare le mappe nel caso in cui appunto il visitatore le chiede. Questa è, diciamo, la nostra attività principale. La vostra attività principale. Francesco, adesso rapidamente, perché vedo che abbiamo pochissimo tempo, ho letto che il 12% di questi volontari è di madrelingua cinese. Sì. È un dato che è interessante anche per voi, insomma. Molto. Allora, prima di tutto, faccio brevissimo, tanti cinesi sono rimasti folgorati sulla via di Shanghai, no? Sull'Expo di Shanghai, quindi hanno voluto esserci. Altri sono invece studenti, e anche tanti dalla Bocconi, dicevamo, che vivono pur magari con un ricongiungimento familiare e hanno sentito dai loro connazionali quanto Expo sia importante, hanno voluto esserci, ma provengono dai nostri territori, ecco. Quindi sono non ancora italiani, ma italiani, nuovi italiani, possiamo dire. Ecco, i nuovi italiani, dunque, una domanda così, magari sciocca, le domande, le richieste più strambe per ora? o sono tutti sensati? Chiedono. No, per adesso mi sono capitate domande sensate. Io ci ho, perché posso pubblicizzare questa cosa qua. C'è una bellissima pagina non ufficiale Facebook dei volontari che si chiama C'hai una mappa in italiano, dove vengono raccolti praticamente tutte le domande più strane. Per esempio, posso dire, vabbè, oltre all'albero della vita trasformato in baobab, dov'è la baobab, eccetera, eccetera. Oppure domande, sa dov'è mio marito? in un ambiente così ampio. Che vado nella direzione opposta. E vado nella direzione opposta. Comunque, veramente, i volontari sono un po' il primo sorriso che incontrano i visitatori, quindi sono comunque felici di rispondere a tutti i tipi di domande, ecco, come possono, ecco, essendo volontari. Sei soddisfatta di questa tua esperienza? Sì, per molto. Però bisogna avere anche tanta pazienza, quello sì. Per farlo. Tanta pazienza, tanta questo pa- è su questa Ma non persona. Solo per fare volontario, sì, esatto, non solo per la vita, per la vita. Bene, grazie mille, tanta pazienza, vediamo se ne serve anche a chi è per strada in questo momento della giornata, in questo lunedì che abbiamo detto si trascina anche di rientro. Grazie ai nostri ospiti, viabilità, e poi torniamo insieme per l'ultima parte.